Allora, nella Mishnah noi abbiamo detto che ci sono, abbiamo parlato nella Mishnah di due casi d'eccezione alla regola normale degli Edim Zomemin, cioè dei testimoni che vengono resi testimoni falsi secondo una seconda testimonianza che dice: voi due testimoni o due o più testimoniate un fatto così e così. Non è possibile che voi sappiate questa testimonianza perché, mentre avveniva secondo voi quel fatto, voi eravate con noi da un'altra parte. Ok? Voi testimoniate che a Roma è successo l'11 novembre così e così, ma voi l'11 novembre eravate con noi a Parigi. Questi si chiamano Edim Zomemin, e la Torah dice: Vassitem lo kasher zamam. A quelli che volevano far punire, far che ci sia una conseguenza per il soggetto della testimonianza, a loro, a questi testimoni considerati falsi, bisogna applicare la stessa conseguenza che si sarebbe fatta applicare a quella persona. Solamente se la sentenza è già stata emanata, ma non ancora eseguita. Dopo che è eseguita, non si applica più questa regola e siamo in un altro ambito di halakha. Questa regola si applica solo dal momento della sentenza e prima che fosse appunto messa in atto. Ora, la nostra Mishnah ha detto: questa regola ha delle eccezioni. Ci sono dei casi in cui siamo sempre nel mondo degli Edim Zomemin, di questo tipo di testimonianza falsa, però non si dà loro la conseguenza, non li si punisce nella stessa maniera che avrebbero fatto fare al soggetto appunto della testimonianza, bensì prendono la punizione generica per le mitzvot negative, che sono le frustate, che sono 39 frustate massimo, in base a quante il medico dice che può prendere, non di più, perché se muore per le frustate è considerato un omicidio per la corte. Quindi deve essere entro questa cosa. Però, quali sono i due casi d'eccezione? Abbiamo detto: se testimoniano di una persona, Kohen, che un Kohen non è vietato per un Kohen sposare una donna precedentemente divorziata, e se invece lo facesse il figlio eventuale, è invalido dal sacerdozio, dalla Keunah, non può servire come Kohen nel Beit HaMikdash. E allora vengono due testimoni e dicono: noi siamo testimoni che questa persona ha sposato una divorziata e quindi il figlio è, si chiama Halal, cioè invalido dalla Keunah, dal sacerdozio. Se risulta che loro sono Zomemin, sono falsi secondo quanto abbiamo descritto, allora non è che diciamo i loro figli diventano invalidi dalla Keunah. No, non si applica, o neanche loro se fossero Kohanim. Non si applica questa regola, è eccezione, si dice devono prendere le frustate. Nella precedente lezione abbiamo approfondito nella Gemara la motivazione di questa eccezione, da dove si sa che appunto esiste questa eccezione. La seconda eccezione qual è? È il caso in cui due testimoni vengono e dicono: noi testimoniamo che questa persona ha ucciso involontariamente, non un omicidio voluto, ma per un incidente, per qualche cosa non voluto, però ha ucciso un'altra persona, che in quel caso qual è la regola? Chi uccide involontariamente doveva andare alle città rifugio e rimanere lì fino alla morte del Kohen Gadol, come una sorta di prigionia. Se risultano falsi questi testimoni, non diciamo devono andare loro alle città rifugio, devono essere loro esiliati, no. Devono prendere le frustate, è un altro caso d'eccezione. E ora la Gemara chiederà: da dove sappiamo che esiste questa eccezione? Perché applicare qui l'eccezione e non la regola? Allora vediamo. Siamo appunto alla terza riga della seconda pagina, che è la pagina 2b del trattato di Makot. La Gemara cita il testo della Mishnah per poi commentarlo. La Mishnah diceva: Me'idin anu be'ish peloni. Noi testimoniamo di tale persona, Shehu Chayav Galut, che lui è obbligato a fare l'esilio per il motivo che abbiamo detto. Allora la Mishnah dice: non diciamo che questo testimone falso va in esilio, bensì prende le frustate. Ora la Gemara pone la domanda: Menà hanè milè, da dove sappiamo questa cosa? In aramaico significa: qual è la fonte? Ora troveremo che due maestri del Talmud offrono una risposta. Primo maestro, Resh Lakish. Amar Resh Lakish, che qui è indicato con un acronimo nel Talmud, nel testo del Talmud classico, Resh Lamed, che è l'acronimo del nome Resh Lakish, suo nome vero era Shimon, Shimon ben Lakish. Resh Lakish dice: De'amar kera, poiché è scritto nel versetto della Torah, riguardo colui che deve essere esiliato, è scritto, quindi colui che ha ucciso involontariamente, non con l'intenzione di uccidere, è scritto: Hu yanus elachat he'arim, lui, egli, dovrà scappare, fuggire, quindi andare in esilio, verso una delle città rifugio. L'esattezza delle parole usate dalla Torah, Hu, egli dovrà fuggire, vuole indicare, o almeno alludere, che Hu veloso memin, è solo lui che dovrà fuggire, e non chi ha testimoniato in falso che dovrà fuggire, fuggiranno loro. Solo lui stesso. Quindi chi ha testimoniato in falso in questo contesto, non si applica la regola del fuggire, cioè dell'andare in esilio, bensì solo alla persona stessa. Se invece risulta che non era così come dicevano questi testimoni e diventano zomemin, falsi, in questo contesto, prendono le frustate per aver infranto la regola della Torah, una mitzvah negativa, e prendono le frustate, ma non viene fatto a loro quello che loro intendevano fare agli altri. Dove è alluso nella Torah? Resh Lakish dice, perché la Torah dice Hu Yanus, lui, Hu, la parola Hu è l'indicazione esclusività. Solo lui, escludendo altri eventuali. Qual è l'altro eventuale? Chi deve scappare se non lui? Certo che deve scappare lui, è lui che ha ucciso. Allora, Resh Lakish da questo capisce che la Torah sta alludendo che è solo lui e non Isomemin. Ok? Questa è la prima spiegazione offerta dalla Gemara. Citazione da Resh Lakish. Ora, Rabbi Yohanan, che in realtà era il compagno di studio, prima il maestro di Resh Lakish, poi il compagno di studio, è diventato anche il cognato, che la sorella di Rabbi Yohanan ha sposato con Resh Lakish. Rabbi Yohanan dice: no, non serve trovare una allusione nell'esattezza delle parole della Torah, perché la cosa potrebbe essere capita seguendo una certa logica. Se si applicasse una certa logica, si arriverebbe a questa conclusione. Quindi preferiamo usare questa logica. Qual è quella logica? Vediamo. Rabbi Yohanan Omer, disse Rabbi Yohanan, Kal Vachomer, la fonte della regola è un Kal Vachomer. Cosa vuol dire Kal Vachomer? Un tipo di logica, che significa un ragionamento a fortiori, a maggior ragione. Se in un caso rigoroso si applica una regola, a maggior ragione che la si applica in un caso simile meno rigoroso. Il contrario, se nel meno rigoroso si applica una certa rigorosità, è chiaro che nel caso rigoroso è sicuro che a maggior ragione che si applica la rigorosità. Allora qual è il ragionamento nel nostro caso? Dice: c'è un Kal Vachomer, c'è una logica, a maggior ragione. Qual è? Spiega Rabbi Yohanan. Ma hu she'asa bemezid. Vediamo, se un omicida l'avesse fatto bemezid, significa appositamente, volutamente, un vero omicidio, ok? Volontario. Se una persona ha ucciso volontariamente, ma, parentesi, che non è scritto in quello che è sottinteso, l'ha fatto in una maniera che non può essere processato dalla corte in modo tale da arrivare alla pena capitale che teoricamente ci sarebbe per l'omicidio voluto volontario. Cioè, magari, ci sono delle regole per far sì che si possa applicare la pena capitale. Innanzitutto servono testimoni. La seconda cosa, questa persona omicida avrebbe dovuto essere ammonita prima di fare l'atto. Cioè, se si vede uno che sta per fare un atto così, bisogna dirgli: guarda che se tu fai questa cosa potresti cadere in una pena capitale secondo il Sinedrio, eccetera. E se lui subito dopo, entro pochissimo tempo dopo l'ammonimento, fa l'atto, allora è processabile per la pena capitale. Se no, non è neanche processabile per la pena capitale. Cioè, i maestri hanno messo moltissimi paletti indicati e allusi nella Torah perché non si arriva effettivamente alla pena capitale. È molto difficile arrivarci. Ok? E quindi, se uno ha ucciso volontariamente, ma non ci sono i presupposti per farlo appunto passare la pena capitale, ok? Questo soggetto qui non viene esiliato. Non si applica la regola dell'esilio. La regola dell'esilio esiste solo in chi uccide involontariamente. Allora, di nuovo, Umahu Shasama Sebe Mesid. Vediamo il caso di uno che ha fatto l'atto volontariamente e comunque è in Nogolè, non va, non è soggetto all'esilio, perché l'esilio è per coloro che hanno ucciso involontariamente. Allora, questi testimoni ce lo assuma Sebe Mesid, che non hanno fatto un atto volontariamente, non hanno fatto nessun atto. Hanno solo fatto una testimonianza falsa, ma l'atto non c'è proprio stato. E in Odin ce lo iglu, non è forse logico che anche loro non siano soggetti all'esilio? Se chi ha fatto l'atto stesso e non rientra in tutte le condizioni non va in esilio e l'ha fatto volutamente, loro che non hanno fatto nessun atto, certo che non vanno in esilio. Se nel caso rigoroso di chi ha davvero ucciso e comunque non va in esilio, chi nel caso meno rigoroso, cioè non hanno ucciso, sicuramente non vanno in esilio. Questa è la logica del Kal Vachomer che Rabbi Yochanan dice: qui c'è l'eccezione. Perché c'è l'eccezione? Perché non ha senso che vadano loro in esilio se chi ha ucciso davvero e senza i presupposti, eccetera, come abbiamo spiegato, non va in esilio lui stesso. Certo che i testimoni che hanno solo detto, solo tra virgolette, però rispetto all'uccidere stesso, solo detto falsa testimonianza, sicuramente non vanno in esilio. Sì? Si applica un'altra regola, chiaramente. Se sono involontari omicidi vanno in esilio, sono volontari si potrebbe applicare la pena capitale, come dicevamo prima. Però qui stiamo parlando dei testimoni. È chiaro il Kal Vachomer di Rabbi Yochanan? La Gemara obietta contro questa logica. Dice no, non è una logica valida. Perché no? Vediamo. Dice la Gemara, vehi notenet. Questo stesso ragionamento va contro la conclusione a cui vorresti arrivare. Perché? In teoria loro dovrebbero ancora di più essere mandati in esilio seguendo lo stesso filo di pensiero. Per quale motivo? La Gemara spiega. Colui che effettivamente ha ucciso volontariamente. L'oligle e non va in esilio, appunto, quando è volontario. Chi heche dell'ote vele capara. Il motivo per cui non va in esilio è perché non ci sia un fattore che lo aiuti verso una capara, verso un'espiazione del peccato. In altre parole, cosa sta dicendo qui? Sta dicendo, chi ha ucciso volontariamente deve subire una pena forte, chiaramente. Questo lo capiscono tutti. Chi ha ucciso involontariamente non può subire una pena così forte perché non era volontario. D'altra parte, deve comunque subire qualcosa perché comunque c'erano delle circostanze nelle quali si è messo che hanno fatto sì che lui ha ucciso qualcuno, anche se non aveva proprio volontariamente ucciderlo, magari voleva ammenare a qualcuno. E la forza era maggiore di quello che pensava e la persona è rimasta uccisa. Non possiamo dire questo qui è un santo, non ha fatto niente. Preterintenzionale. Allora il shogeg, forse possiamo tradurre con preterintenzionale e dire Comunque qualcosa devi scontare. Allora lo facciamo esiliare, una sorta di prigionia, dove questo aiuta ad espiare il suo peccato, una capara. Colui che invece era intenzionale, non vogliamo aiutarli ad arrivare a questa capara. Deve scontare in un'altra maniera. È per questo che non lo mandiamo in esilio, perché l'esilio non sia una capara, un'espiazione per il suo peccato. Ok? Di conseguenza, concludiamo solo il filo di pensiero. Allora dice, colui che ha ucciso volontariamente non va mandato in esilio perché questo non sia una capara per la sua anima, che non sia un'espiazione, è troppo piccola come cosa da scontare. Però, loro, questi nostri testimoni famosi, se lo assumono a sebe mesid, che appunto non hanno fatto l'atto di uccidere non l'hanno fatto, hanno fatto una trasgressione meno forte che quella di testimonianza falsa, loro, namiliglu, facciamoli andare sì in esilio, chi hechi di leveleu, capara, in modo tale che loro possano scontare questa pena in questa maniera, che sia una capara per loro. Se per l'atto meno peggio, tra virgolette, vogliamo aiutarli ad arrivare ad una capara, come per chi uccide involontariamente o preterintenzionale, allora in quel caso facciamoli sì andare in esilio, così scontano la loro pena, arrivano alla loro capara. Quindi, Cambia tutto questa ragione. stessa logica che tu hai detto, Calva Homer, Rabbi Yochanan, la puoi girare e dire esattamente il contrario. Se chi ha fatto l'atto tu non lo vuoi mandare in esilio, perché non lo vuoi mandare in esilio? Perché non abbia una capara. Ok, ma se l'atto non è grave quanto quello, quindi è la testimonianza falsa, non è l'atto di uccidere qualcuno, mandali in esilio, così avranno la capara. Nel caso rigoroso non lo vuoi fare, ma nel caso meno rigoroso fallo. Quindi la tua logica che tu dici che per questo Kal Vachomer nella Mishnah c'è l'eccezione, potrebbe essere rigirata la logica esattamente al contrario e dire che devono sì andare in esilio e che non ci deve essere l'eccezione in questo caso. Rimasto 20 minuti fa io. Ok, allora adesso No, non ti ripetiamo, preoccupare. però concludiamo solo la conclusione, Qual era solo la la frase conclusiva. È una frase. La Gemara dice: Ela solamente in base a questo rigirare la frittata che abbiamo fatto adesso. Ela mechavarta ki deresh lakish. Solamente. Cioè, invece, come dire, invece, accettiamo il rifiuto della logica di Rabbi Yochanan e Machavarta significa è più chiaro che la fonte della Mishnah sia che de Resh Lakish, come quanto indicato da Resh Lakish, ovvero nell'esattezza del linguaggio usato dalla Torah che dice Hu Yanus, è lui che dovrà fuggire, usando un termine esclusivo che dice lui e non nessun altro. In base a questo la Mishnah dice c'è un'eccezione. In questo caso, se dicono voi dovete andare in esilio e poi sono zomemin, sono resi falsi, loro non vanno in esilio come normalmente nella testimonianza di zomemin, bensì prendono le frustate, che è la punizione generica, perché? Perché l'esilio è esclusivo per chi ha ucciso involontariamente, perché c'è scritto Hu, solo lui e nessun altro. Per quanto riguarda la logica della Biochanan, non accettiamo questa come fonte. Perché potrebbe essere anche al contrario, vista la stessa cosa. Ok? Allora ricapitoliamo un attimino. Torniamo al numero uno. Numero uno, la Torah insegna, Eidim Zomemin, testimoni che vengono scoperti come Zomemin, subiscono la stessa pena che hanno voluto far infliggere al soggetto della loro testimonianza. La Mishnah ha aperto il nostro trattato con due eccezioni a questa regola. La prima di cui abbiamo parlato l'altra volta, il Kohen che ha fatto un matrimonio per il Kohen vietato e invece non è vero, non l'ha fatto, sono Zomemin questi testimoni. Loro non diventano invalidi alla Kehunah, bensì ricevono le frustate. E abbiamo spiegato nella scorsa lezione la fonte di questa eccezione. Seconda eccezione, soggetto di questa lezione, è se testimoniano riguardo una persona che ha ucciso involontariamente e, secondo la regola, dovrebbe essere esiliata, e poi viene fuori che sono Zomemin, che non deve essere esiliata, che loro dovrebbero, che non ha ucciso, loro dovrebbero teoricamente andare in esilio. La Mishnah dice no, c'è l'eccezione, prendono le frustate. Perché c'è l'eccezione? La Gemara offre due possibilità. La prima è l'opinione di Reish Lakish, che alla fine la Gemara accetterà come valida questa opinione, come abbiamo visto, e cioè che visto che la Torah usa un linguaggio esclusivo e dice Huyanus, lui dovrà scappare. Perché la Torah deve dire Hu? È chiaro che chi ha ucciso scappa e non chi ha visto, o qualcun altro, o il suo vicino. Perché deve usare il termine Hu? Reish Lakish dice, è per alludere a questa situazione, dove tu faresti esiliare qualcun altro, come fai normalmente nei Zomemin, che dai loro la punizione che avresti dato, che avrebbero fatto dare loro al quello. Qui c'è scritto Hu, solo lui ha l'obbligo di fuggire. Loro, i Zomemin, non hanno l'obbligo di fuggire, invece sono un'eccezione e si dà le frustate. Questo ha spiegato Reish Lakish. Alla fine la Gemara ha detto, ha ragione Reish Lakish, e questa è la fonte della Mishnah. In mezzo però c'è stato il discorso di Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan ha detto, scusa, non ho bisogno di una fonte testuale, c'è una logica chiara. A volte, il Talmud dice, quando c'è una logica, non sempre serve la fonte testuale, perché una logica non è la logica sempre nostra. È la logica che segue alcune regole di esegesi dei versetti, che questa è una delle regole, calva homer, questo ragionamento a fortiori, a maggior ragione. Quando si segue una logica secondo queste regole, si può anche fare a meno di una fonte esplicita testuale. E a volte si preferisce fare a meno, per non far pesare sul testo qualcosa che forse non è così chiaro che ci sia, ma se c'è la logica dietro allora è più facile. Allora Rabbi Yochanan dice, no scusate, qua non serve la fonte testuale, qua c'è una logica, kal vachomer. Qual è il kal vachomer? Se la persona stesso che ha ucciso, il mezid, cioè colui che ha ucciso volontariamente, ok? Va messo in esilio? No? L'esilio esiste nel caso del volontario. Allora, anche se lui non viene sottoposto alla pena capitale, perché non ci sono i presupposti, per esempio non è stato ammonito, non c'era una buona testimonianza, qualsiasi fosse il caso, ma anche quando non viene sottoposto alla pena capitale, alla pena che gli spetterebbe in teoria, non va in esilio. L'esilio non esiste per chi ha ucciso volontariamente. Allora, se qualcuno ha ucciso volontariamente e lui non va comunque in esilio, quindi il caso è rigoroso, è un omicidio volontario, il caso è rigoroso. Per ciò che riguarda l'esilio siamo non rigorosi, non lo mandiamo in esilio. Allora chi non ha fatto l'atto rigoroso come quello, ha solo parlato falso, ha detto una testimonianza falsa, ha maggior ragione che non gli si può applicare l'esilio. Se non lo applichi a chi proprio ucciso, eppure volontariamente, mica lo applichi a qualcuno che ha fatto una cosa minore come trasgressione, come contro la legge. Kal vachomer, questo è il ragionamento. Quindi eccezione, i Zomemin non vanno in esilio. Perché anche nel caso del mesid non andrebbero in esilio, nel caso del volontario. Okay. La Gemara dice, la logica si può vedere anche al contrario, questa logica qui. Perché potresti dire, aspetta, tu mi dici che chi ha ucciso volontariamente e non ci sono i presupposti per sottoporlo alla pena capitale, non va in esilio. Ok, ma perché non va in esilio? Il motivo per cui non va in esilio è perché noi vogliamo essere rigorosi con lui. Non vogliamo che lui arrivi ad espiare il suo peccato attraverso questo esilio. Quindi è una rigorosità il fatto che non va in esilio. Non è una leggerezza come pensavi di dire Rabbi Yochanan. Di conseguenza, cosa vuoi dire? Che applichiamo la rigorosità anche a chi ha fatto una cosa minore? No, anzi, diciamo il contrario. Il caso più rigoroso di chi ha ucciso volontariamente ma non va in esilio perché vogliamo essere rigorosi con lui, che questo non sia per lui un'espiazione. Quelli che hanno fatto un peccato minore mandiamo in esilio, così ricevono la loro capara. Quindi esattamente il kal vachomer diventa il contrario. Allora non può essere questa la fonte della Mishnah. Ecco perché la Gemara conclude dicendo, ok, Allora torniamo alla motivazione testuale indicata da Reish Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish, che ha detto "Hu, lui dovrà andare alla città esilio e non qualcun altro". Ok? Va bene, Leonardo? Ok. Ora, ok, allora concludiamo qui perché abbiamo concluso un concetto e poi la prossima volta andremo a vedere delle altre fonti generali che riguardano gli Edim Zomemin.